Yeah! Questa è Peppina Bella! Bella! Direttamente da Foggia! Sì, sì, sì! Uno dei più grosso trapper da nazione! Sintomo! Ma se potrà essa così cazzona, yeah. Da fa credere che tu fi successo che sti cazzo di canzone. Da oggi vi fazzi recensione. Tresenda stu mondo, trap advisor, non faccio eccezione. Senza pregiudizi, creditemi, vi giuro. Qualcuno volò dal nido du culo. Fino a quattro si te prove e sapi te conta. Ma qua sino zero e non si manca canta. E stu cazzo di slang, io non digerisco. Avessero arrestà chi va fatta fanno disc. E a mamma te padre te la va. A padre potestà, scarabo chiasso in faccia, e che bella novità. E qua passano l'anno, e si scagna pure loro. Non posso passare un messaggio, che si nutra scenatore. Probabilmente una massa d'adolescente, e di chiar fusil, che tra qualche mese non serve più a niente. Quanto ti chiedi a kill? Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Ti do 5 stelle se è l'ultima canzone. L'ultima canzone. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Come 5 stelle, vi strappo via dalle poltrone. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Ti do 5 stelle se è l'ultima canzone. L'ultima canzone. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Come 5 stelle. Vi strappo via dalle poltrone. Ok, ci sta rompere gli schemi, ma sta roba qua ha rotto il cazzo, sì. Con i vostri problemi, sì. Sembra che nel cervello c'avete la merda. Hai finito? Scendi dallo sgabello che ti do una sberla. Così ti riprendi anche se non hai rivali. Mi sembri strapompato per quello che vali. E la mia recensione, sì. Ma fate attenzione a tutti sti galli nel pollaio. La competizione con la testa in pausa di ricreazione, senza nessuna causa, no. Di cognizione, cognizione. Dalla scuola materna, da cui siete venuti, omologati a nulla, sì. E privi di contenuti, privi di stelle ma pieni di ego, ego. Costruiti in serie come mattoncini Lego. E qui lo dico e qui lo nego, il mio giudizio è negativo come il mio alter ego. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Ti do 5 stelle se è l'ultima canzone. L'ultima canzone. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Come 5 stelle vi strappo via dalle poltrone. La poltrona. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Ti do 5 stelle se è l'ultima canzone. L'ultima canzone. Trap advisor, scrivo la recensione. La recensione. Come 5 stelle vi strappo via dalle poltrone.